sabato 20 ottobre alle 15 intorno ai prati di Caprara Est, il grande abbraccio a cui abbiamo invitato la cittadinanza, hanno aderito 60 associazioni cittadine e non solo, si va dalla A dell'Arci alla W del WWF, perché è il bisogno e la richiesta che ci unisce di restituire un bene comune così importante come un bosco urbano alla cittadinanza, unisce tutti lo sentono, tutti lo capiscono. Il problema della qualità dell'aria è talmente sentito, è talmente presente, tanto che la prima associazione che abbiamo coinvolto è stata quella della Rete dei Genitori di Bologna, proprio perché la presenza e la partecipazione attiva dei bambini per noi è determinante in una visione della città che vogliamo che anche l'amministrazione condivida con noi e accetti la proposta, la richiesta di così tanti cittadini per il cambiamento del piano operativo comunale, il POC, che è il limite in questo momento alla preservazione di un bene comune di tanta importanza, perché l'estensione è enorme, si parla di 45-46 ettari di verde a 500 metri da Porta San Felice, cioè a un passo. Tra l'altro l'accesso e la fruizione, la restituzione alla cittadinanza di un bene simile, oltre che mitigazione delle temperature, il drenaggio delle acque, l'abbassamento delle polveri sottili, ma è anche estremamente democratico, e perché tutti possono accederci a piedi. Per la giornata del 20 ottobre infatti abbiamo chiesto di venire senza auto, tanto che la Consulta della Bicicletta ha organizzato una partenza da Dinamo Velostazione alle 14:30 e l'Associazione delle Runner ha organizzato una partenza invece a piedi, di corsa o passo veloce, da Giardini Margherita, da Porta Castiglione, tutto per confluire poi alle 15 ai prati di Caprara. Ci troviamo al ponte dove si incrocia via Burgatti con la ciclopedonale di via del Chiù. Torno a questo, stiamo lavorando da tanto tempo, infatti circa un mese fa, un po' meno, alla fine del mese scorso, insieme a Lega Ambiente, per la giornata di Puliamo il Mondo, hanno risposto al nostro appello più di 200 cittadini, ci siamo trovati per la pulizia del bosco di Prati Caprara, siamo entrati, cioè abbiamo forzato un limite della legalità, perché nel bosco non si potrebbe entrare. Ci siamo presi questa responsabilità per dimostrare che con veramente poche forze si può raccogliere molto e si può migliorare il bosco. Lui la sua funzione la espleta naturalmente, gratuitamente, silenziosamente, senza chiedere nulla in cambio, e noi gli siamo abbastanza grati, cerchiamo di difenderlo come possiamo. Anche il FAI è interessata in questa partita, stiamo raccogliendo le firme perché è tra i candidati a luogo del cuore. Invitiamo tutti ancora a votare, abbiamo tempo fino al 30 novembre. Per adesso hanno votato 14.300 persone, 14.300 persone hanno pensato che vale la pena impiegare 2 minuti e votare per dare un piccolo segno di protezione al bosco. Questo naturalmente è propedeutico alla lotta che continuerà. La giornata sarà un punto importante, gioioso, un grande girotondo che precede comunque un autunno che continuerà a essere molto impegnativo. Il 7 novembre ci sarà la prima seduta dell'istruttoria pubblica che come comitato abbiamo ottenuto con la raccolta di 2.500 firme certificate in un solo mese quest'estate, dove finalmente è l'unico strumento che la città, la cittadinanza ha a disposizione per poter interloquire con l'amministrazione, e dove sarà molto importante perché insieme a molti esperti chiederemo appunto ancora una volta a questa amministrazione di rivedere il POC, di non consegnare alla cementificazione un bosco urbano, perché la visione di una città guarda al futuro, pensa al verde, pensa alla mobilità, cerca di rendere possibile il fatto che vivere in una città continua a essere alla nostra portata. Le malattie conseguenti all'inquinamento sono veramente sotto gli occhi di tutti e siamo preoccupati. Per questo vi invitiamo, perché sarà una bella giornata, il tempo tra l'altro è dalla nostra parte. parte ci sarà il sole e anche temperature veramente miti per questo momento della stagione. Contiamo in numeri alti, le adesioni fino adesso tra le varie eventi sono intorno alle 2000 persone, che è il numero di cui abbiamo bisogno per abbracciare.